trampolino con lo squadro la bambù. Io non lo so, no, no, no, per un dono solo no, impazzerò. Hey, hey, signorina, conosco una panchina dove non si fa attenzione perché c'è che l'emozione. Ti voglio baciare e rubare, poi potevo fare l'emozione dell'amore. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Come stai? Così te ne vai? Hey, bella ciao! Hey, bella ciao! Ciao, ciao, ciao! Hey,